sposa, addio Griselda. Così tosto mi nasce. Atteso io sono. Almeno un solo sguardo, volgimi per pietà. Troppo mi chiedi. Dunque, qual tiero addio? Ti lascio. Quasi dissi.